100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Microsoft sborserà più di 26 miliardi di dollari per comprarsi LinkedIn, il più noto social network per professionisti, una sorta di Facebook dove gli utenti non vanno a caccia di amici ma di opportunità di lavoro attraverso la costruzione di una rete di relazioni professionali. La cifra dell'acquisizione è impressionante, ma è utile interrogarsi anche sul significato di questa operazione. Peraltro Microsoft non è nuova a iniziative imponenti. Ricordiamo che nel 2011 si è comprata Skype, pagata 8,5 miliardi di dollari, e nel 2013 Nokia per 7,2 miliardi di dollari. Ecco, proprio da Nokia possiamo partire per cogliere il senso dell'operazione. Qualche settimana fa Microsoft ha deciso di cedere la sua area smartphone e di cambiare rotta, peraltro perdendo anche un sacco di soldi. La mossa su LinkedIn ora è la conferma che Microsoft vuole puntare sul mondo dei servizi e delle tecnologie professionali, un mondo che è certamente molto vicino alla filosofia, agli strumenti che la società con sede a Redmond già possiede. Si pensi a Office, a Windows 10, alle piattaforme come Dynamics, il tutto per un'azienda che è leader insieme ad Amazon nel cloud computing. L'obiettivo allora è quello di intrecciare sempre più queste specificità con LinkedIn, che con i suoi 430 milioni di utenti nel mondo può aprire nuovi scenari e nuove prospettive di business, servizi e connessioni in un'unica piattaforma. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Così come in borsa gli investitori non danno tregua alle banche, anche nell'economia reale la crisi e l'incertezza tengono alta l'attenzione sul sistema bancario italiano. Dai nuovi dati sul mese di maggio, appena diffusi dall'associazione bancaria, emerge infatti un quadro contrastato di non facile lettura. Se da un lato le banche italiane continuano infatti a prestare più soldi di quanti ne raccolgano tra depositi e obbligazioni, 1.817 miliardi in uscita contro i 1.679 miliardi in entrata, dall'altro continuano a stagnare non solo i prestiti alle imprese, ma sono in particolare i prestiti al consumo e alle famiglie a segnare l'ennesima contrazione. L'unica attività che sembra invece riprendere quota è quella dei mutui, con le erogazioni per gli acquisti della casa in aumento dell'1,4% sul maggio 2015. Sembra poco, ma in realtà il mercato è stato negativo a lungo. A dare spinta alla domanda di mutui sono ovviamente i tassi di interesse al minimo storico, grande opportunità per chi si indebita, ma vero handicap per chi i soldi li presta. Più i tassi sono bassi, meno margine di guadagno c'è per la banca che eroga i miei finanziamenti. In particolare, il tasso medio sui mutui si è attestato a maggio al 2,24%, toccando un livello che non si era mai visto in Italia, e il precedente era il 2,9%. Che dire, insomma, che sicuramente il momento difficile delle banche non è passato. Il dato più evidente è il crollo delle emissioni di obbligazioni con cui le banche italiane hanno fatto gran parte della raccolta e i soldi con cui prestavano. È ovvio che in queste condizioni la ristrutturazione delle banche deve essere urgente, non soltanto per tornare alla redditività, ma per sostenere un'economia che ne estremo bisogno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.